attaccare. Cosa riprendi? In giro vedi, no? Ah? Già te già. Lo vedi in giro. E allora in giro ero. A guardare, a vedere. Ehi! E cosa devi guardare adesso? Ho preso, ci sia tanto da guardare adesso. Con la malia di guardare c'hai adesso. Negozi, a Bada Trento a vedere. Se si acciappava che cosa invece. Mi sa che non ho venuta. Certamente non è successo niente, così che non vedi niente. Cosa vuoi fare? Cosa ci vuoi fare? È così. Non si può manco comprare. Nulla si può comprare. Che cosa è si può comprare, cosa è, bisogna anche vedere i prezzi come sono, se vale la pena oppure no. Cari Gio, sono ben cari. Cosa è, sono carissimi. Ma ci saranno gli equivalenti, no? Eh? Ci saranno gli equivalenti e costano di meno. Ui. Quindi la peggio che mai. Oh, era la questione seria allora, Sa che ci abbia qualche cosa? Capito, perché l'assicurazione ha aumentato. Ha già dovuto già l'assicurazione, boom. Io ho cambiato, Prima avevo un gruppo A, ma adesso ne ho l'altra. Che si paga molto meno, e per cui ho cambiato anch'io, Aspetta. Speriamo che lo aumentino anche loro. Ho avuto a togliere le cose dei cristalli. Da quello che pagavo 25 euro, ne pagavo 60, ogni volta la tolga, la metto. Allora mi sono messo solo il carattrezzi. Da 4,90 io preso con la cattolica a pagare 4,40. Quelle cose costano male. Allora io mi metto sotto, pulso incendio sto. Però sono sotto, pulso incendio. Ormai è già 22 anni subito, per cui sono sotto. Sì, è un giorno che li avevo tutti io, quelli lì. Purtroppo è un bel caro buco assicurazione, sono un bel caro. Che le storie costano, che costano molto meno, Via cercarli, insomma. Via cercarli. E per cui... Cazzo. Io non ho avuto mai un incidente, cazzo. E l'assicurazione è sempre quella lì. Cazzo, Cazzo. Ma tu te l'immagini. È la colpa di quelli che c'hanno... che fanno incidenti, ecco cos'è. La colpa di quelli lì. Ci stanno venendo gli aumenti. Io dico, fatto un incidente, sei tu che devi pagare l'aumento. No, io faccio di pagare io che non mi vai manco nulla. E infatti io ho preso e me lo sono andato via con l'assicurazione. La mamma mi ha mandato il coso perché sono andato via. E che non mi va di più. E gli avevo detto, io ce la sto andando via da lì perché non mi vale più con l'assicurazione lì, con quell'aumento pure. Ma c'è mangiato finito a Rido Paese, che ne sono l'assicurazione, a voglia. Cazzo, comprerei più assicurazione, capito? Per cui, io almeno vorrebbero cambiare perché sono la fitta con quell'assicurazione. Prima era la Tirrenia, poi ha cambiato al gruppo A, ma ma sono sempre io, sono stato sempre lì. Cazzo, ma perché diminuire all'ombra? Andate aumentando sempre. E questo è vero incidente, nulla è. Ma io non sono lo stesso così. Non sono lo stesso, e caspita, a uno che non fa incidenti c'è sempre l'aumento. A quello che fa incidente e cosa gliela abbassate. E non va bene così. No, ci sto più. Dice, guardi se ce n'è qualche altro, se no vado a quello della banca, che mi fa molto di meno. Quindi era andato ma ci ha amato. C'è la cattolica solo a voi, 4.40. Allora si batte la cattolica. Bah, una mazza, ero un fattore solo su queste colazioni. Cazzo, se gli attacchi più che solo, cazzo, per carità. E fanno quello che fanno, fanno quello, però. E andiamo al cazzo che facciamo disertare subito. Prima no, prima di stare un mese e poi invece adesso puoi disertare subito, basta la telefonata, boh, si apposta. Invece con questa, con quell'altra pagavo ogni mese 40, 44 e qualcosa ogni mese. Ah, ma invece mi tocca pagarlo in contanti. Vedo un po'. Ecco, potevi inciampugliare la computer, ce ne sono parecchi. Infatti, alla prossima, se vedo che aumentano anche questi, lo faccio due giorni prima e vado in un'altra parte. E qui c'è tutto, c'è le assicurazioni, per quello paghi molto, insomma. Qui c'è tutto, in chiesa c'è il carrozzetto, c'è tutto là. Ecco perché ce l'hanno aumentato. Ho lasciato il carro attrezzi, ho lasciato il carro attrezzi perché in caso che serve. Oh, carta chi darà 4, l'altra che è in dietro era 4,90, più il cristallo veniva 5,55 veniva. Oggi però no. Proprio a togliere il cristallo mi veniva 4,90. La cattolica 4,40, no? Di compreso. Perché la cattolica è di meno e questa è di più. Ah, sono andato via. Ma non ho dato il messaggio perché sono andato via. Ma che sia perché è troppo cara. Siete troppo cari e non mi va più di tenervi. Ah, gente, arrivederci. Una cosa, ero con la reale muscola, e avevo il cambio assicurato e la macchina. E sto mettendo. Dopo un anno si arriva una raccomandata, che siccome non ho avuto mai incidente, che me l'avevo abbassata la metà. Cazzo, io ho ringraziato. Dopo l'altro due o tre mesi mi arriva l'altra lettera che sono andato a pagare. Cazzo, c'era un aumento. Cazzo, prima me l'aumenta, poi mi ringavano. Sono abbigliata in giro, hai ragione, Mario. Sono abbigliata in giro. Questo guardi, vedi il foglio, ho firmato, sono stato un mese e ho cambiato, allora sono ripassato di nuovo alla Reale Mutua, anche alla Tirrenia, che adesso è il gruppo A, ma che aveva cambiato, che la vita era inspettore, non riuscivo più a combinare niente, eravamo a questa gruppo AMA. Sembrava strano, sempre aumentando, ho visto così, ho pigliato, ho trovato una di meno e ho fatto la ripresa. E noi allora, il prossimo anno ci fai che aumenta. Dico della sacca e guardo se ce n'è qualche altro, no, vado alla banca e guardo vedere cosa mi fa la banca. Se la banca mi fa ancora di meno, me ne vado lì. Ecco, vieni sì. E provo a vedere un po'. Già sta. E quanto paghi? Ogni mese paghi, no? No, adesso ogni 6 mesi. 206 ogni 6 mesi. Vabbè, è un prezzo abbastanza buonino, dai, perché sai fare tutto, tutto tu. No, io ho tolto molto incendio e il resto è tutto, ma pago poco, io non mi ricordo quanto che pago. E per cui ora abbiamo cambiato tutto. No, io pago così perché la cilindrata è alta, quindi è in base alla cilindrata che devi pagare, è un 1600, quindi la seconda documentanda se la bilo più minore mi rabbiglio. Anche grande la cilindrata, fa 1000 e per cui... No, ma l'ho fatto pagare anche per il gancio traino, avevo messo il gancio traino, anche per quello pago io. No, io per il gancio traino che è estraibile, il mio, no, non pago, non lo pago, perché è estraibile. Infatti no, non ce l'ho attaccato io. Quando lo attacco c'è, ho il carrello o qualche altra cosa attaccato, quindi no, non pago. Ah, io quando ho fatto l'assicurazione per il carrello, ma anche il carrello, anzi il cazzo traino, non il carrello, il cazzo traino. Per cui pago una poca roba, pago, per cui ti puoi immaginare, ragazzi, a pagare anche il gancio traino, ragazzi, lo so io. 10 euro ti fanno pagare in più, perché ce l'hai fisso nella macchina, ce l'hai attaccato fisso, ecco perché. No, il mio è traibile, l'ho fatto solo io. Sono la cavetta, cazzo, e l'ho fatto togliere e rimettere, ragazzi. La cavetta in modo che non me lo freghino, guarda il gancio traino. È traibile il mio, infatti ce l'ho nel bagagliaio, nel cofano ce l'ho il gancio traino, nel suo sacchetto. Ma che non dovresti pagare lì, perché è straibile. È straibile, non si paga. Se fosse stato fisso allora sì, io non pago nel coso. Ma l'ha detto a me la signora Gibber, me l'ha detto, dice no, lei ce l'ha estraibile, quindi non paga il gancio traino. Oh, non so questa qua, come questa che abbiamo cambiato da poco, ma abbiamo cambiato un mesetto, due, cambiato, non penso in tutto, non penso per pagare il gancio traino, perché io ce l'ho estraibile, per cui non... Perché l'ha attaccato, insomma l'abbiamo attaccato 2 o 3 volte solo e basta, di 20 anni, ragazzi, anzi 22 anni. Ah, ma fermo la polizia, mi ha detto, dice, c'è il gancio traino. Sì, ma io assicurazione di quello non la pago perché è estraibile, vede che non ce n'è il gancio attaccato, quindi, non si sbatte nessuno lì. No, io non lo lascio mai attaccato. Mai ho lasciato il gancio traino, no, mai. Quando staccavo il carrello, staccavo anche il gancio, boh, e lo mettevo nel sacchetto, come adesso nel sacchetto. Sì, ultimamente l'ho usato mio figlio, per portarci un gommone a Baia Santini, era agganciato, però quando è ritornato, l'abbiamo tolto il gancio sacchetto, capito? E così facevo io, quando staccavo il carrello, staccavo anche il gancio, e il gancio ce l'ho nel cofano, quindi La lotta con solo se ne devo attaccare qualche carrello, basta, non devo attaccare altro. Uri biondo, arrivo anche lui, quasi a tutti e due. E ciao, ma lui ma tu c'avevi il carrello quello grande per il gommone, ma visto il carrellino così che è diversa l'assicurazione, capisci? Il carrellino appendice, hai appendice, tu ce l'hai. No, io ho pagato l'assicurazione e il bollo del carrello. E perché tu potevi portare un altro carrello pure, mentre io altro carrello non lo posso portare. Altro carrello non lo posso portare, solo quello che ho io posso portare. Infatti io posso portare qualsiasi carrello attaccato, posso portare. L'importante è che ci abbiano l'assicurazione. E poi se non c'hanno il bollo non me ne accorgo nulla. L'importante è che abbiano l'assicurazione. Ecco cosa è. Anche quello delle macchine posso portare attaccato. Ma infatti lo so, è diverso là. È diverso il gatto da mio al tuo, per cui, e io il carrello mio non lo posso dare a nessuno, anche deve essere solo con la macchina mia posso usarlo, capito? Infatti Emanuele, mi sto ascoltando tranquillamente, io sono appena arrivato, ho fatto un po' di spaghetti di Udo, adesso potete mangiare. Adesso mi rilasso un pochettino, poi mi guardo un po' la televisione dopo. Hai ammagnato, no? Sì, ma due chili di spaghetti di Udo mi ha fatto con due peperoncini dentro. Due peperoncini, insomma. Non credo che ti frigge la rete, uia. Amici, tu da che ti riesci anche il trudio, finta è doppiato, riesci un fumo. Stava di sentore senza domani, non per pericolo. Che avvegli? Tanto, chi se lo batte con il sedere, anche lui è più al terreno. E manco male, i suoi speciali che si vomiti, se no viene teso tutto. Eriosa, che vuoi? Speciali, Eriosa, cazzo si sente a rinventare il 2.10. Ma si intende? Sono fatti in polistirolo, sono fatti. Dai, che si sente tutto, Tom, si sente fino anche quando russano, penso a lui. Devo dire a lui, non glielo so fatti bene, non so fatti. Ecco cosa è. Oh, Giulia. Anche roba buona faccia, ma si può rispettare meglio questa, che si produttore, per carità, certo, ma io ci si faccia di subito. Sono fatti di calcaoni sono fatti da marisi, grazie, per carità. E vabbè, casa di bovari, anzi, volevo ringraziare anche alla banca salirà di una casa. Allora, certo, chi sa il toro è fatto con un ferro e cazzo distrutto, cosa è fatto sto di concime? Sì, sono fatti bravo che da normale, sono fatti. Ecco cosa è. Sono fatti bravo che da normale per un ferro in mezzo. Ma chi deve un polistirolo, sono fatti, sotto sono fatti, come si chiamano? Il calcestruzzo ma non è un coso di polistirolo, 50 cm di polistirolo, guarda. Ma cos'è polistirolo? Di nuovo non è polistirolo, non ce n'è camera d'aria qua, magari se l'ha detto. Ma bovita ci ho qui di denni io, ma non ho fatto la volta lì, io li ho visti costruire. Ed erano infatti sotto sono in calcestruzzo e sopra avevano 50 cm di polistirolo. L'ho visto costruire io. E solaio sì, ma io ti sto dicendo le pareti, ma adesso si intende tutto, cosa metto un solaio. Il solaio cazzo si intende le banate, ma ti ritira, le rivale, ma lo so mi butto. Non ha rimbocco brutto nulla. Dei muri io non stavo dicendo nulla, ma della bovita sì. Il solaio è fatto come si deve, anti rumore. Ah, lascia perdere, costante rumore. Cazzo vuoi che caga che dice la curva da un lato? Cazzo vuoi che dica l'ore se ne sono tutti? Si intendi, cammini? E si intendi sì, uno due bracche me la gioco tutto. Io ho giusto cammini. Fendi di disegnarsi, eppure il solaio era fatto bene. Lascia perdere, io non vengo da quanto vuoi di disegnarsi. Non c'è niente fatto bene di queste case. Purtroppo è così. Boh, sono case comunali, so. Non sono case comunali. E sono case sia comunali che popolari, sono case dell'area stessa. Ormai sono tutte e due dell'area, sia popolare che comunale. Non faccio nulla io di questo. Andare. Avanti Giovanni. Ho visto i muri che hanno fatto dove abitare California. Sono fatte tutti tracchite. Cazzo, la bomba da di sopra, l'ultimo piano, sopra non si muove passare, sopra la bomba, l'ultimo piano, tutta le tegole. Ma che si fa? La canna sono fatti. E da poi quella rete è entrata a giugate, cattina è terra. Non lo so, quello non lo saccio. Io con lui li ho visto costruire, anche qua si ho visto costruire, io dico, però chissà, adesso i figli degli appartamenti si è ammazzato. Quando facevo la bocca, allora mettevo i sassi e il ferro ai fianchi e si staccavano col ferro. E le travi erano quelle lì. E dopo si staccavano e si metteva l'altro ferro in mezzo. Mentre adesso infatti sulle travi stanno usando queste gruppi adesso che c'è come tutto, solo il polizione in mezzo. Però cazzo, non si faceva nulla, non si faceva nulla. Cazzo e succe, invece morire magari 3 quintali, quindi muore un quintale. Ecco perché si sente tutto. Infatti è così. Boh, prima le badiane più belle, invece si sono abbassate dopo, Cosa vuoi dire? Sono così. Avanti Emanuele. Sono così, più bene. Ma l'hanno fatto sempre alla mascaretta, sempre. A chi le piace dire la dove c'è la mia madre, lo stesso. Insomma, io, lo vedi, l'hanno sono fatti lei. Tu, già, la capisci, mi è vero, ho detto che ne dai. Capisci altri soldi, io, mi è vero. E perché io muovi in gas, mi è vero, ti dici i soldi. E ripensare, passamento e l'altro, sto facendo la fine di mattone, non sono vuoti in mezzo, capito? Cioè, si può immaginare, per quello ci sente tutto, capito? Sì, sono fatti tutti baratti, le basi in economia, a guadagnare anche i soldi. Le imprese purtroppo cazzo facciano delle cose che purtroppo le cose ben fatte non le facevano, non l'hanno mai fatto, come adesso sì, per carità, però se ci sono molti soldi in casa di proprietà di gente chi fa di là già per i fatti di pensa. Purtroppo è così. E così ti ritenemmo, andiamo dove andiamo, tutto è fare economia in linea. Vabbè ragazzi, vi rilascio quando guardo un po' il telegiornale, che mi rilascio nel letto. Ciao Maria, ciao Tore, ce la riascoltiamo, dai, tutte le migliori, buona continuazione di serata, dai Tore. Ok Emanuele, ci risentiamo alle prossime, ok, ciao Emanuele, fammi bene. Avanti Giovanni. E riposati che vedo che sei stanco da lavoro, è tutto stancato, per cui riposati bene. Poi tu la mano di fate agli olio, cazzo, mi immaginavo, olio. Dai, già adesso domani non c'è più niente. Olio. Dai, vabbè, ciao, vabbè, ciao. Dai, domani sentiamo, dai. Ciao a tutti. E così sto, olio. Così è sto. Ah, quello è vostro, è stato un cazzo più bene fatto di questi qua, vai. Cazzo. E ci avete anche il tetto con le tegole, cazzo, è tutta un'altra cosa. Ma qua, per carità, vede morire i chili, no? Mentre voi invece siete riparati perché ci avete le tegole e ci avete le sotto il tetto vuoto, per cui si ripara, vai. Ma sai, no, dici che per caso nell'appartamento di Sio c'è un bel gatto lì. Beh, io il caldo lo sento sì in casa, se faccio arieggiare il caldo non c'è molto, però anche così. Ma il caldo c'è dappertutto, dai, purtroppo sono fatte in economia queste case, capito? E per cui non sono tamburate, per avere caldo deve essere isolato dai muri dei fianchi, capito? E invece isolato, lui cerca la vita di isolamento, però non sono isolati, capito? E io un po' i muri di qua me li ho un po' isolati. Faccio un po' così, bombolette, quelle da 50 centimetri di coso, quello che si gonfia, e ce l'ho spruzzato dentro. Ma più intanto, ma tutto completo non lo fanno anche le bombolette. L'isolamento bisogna farlo quando stanno facendo i muri, insomma. Allora sì. Cazzo, ma se no tu poi la bomboletta e fai un metro di fasi e da poi l'altro senza nulla. Ho iniziato da sotto, poi sono salito a un metro, ho fatto altri buchi e ho buttato giù. C'è un piano lo fa, poi un altro appena più su, e poi l'altro più su, sino a tappare tutto. Ma chi viene male a coprire tutto ciò, viene male. In qualche parte già si copre, ma non tutto, capito? E per cui caso è lo stesso. Ma non si va. Io dal buco me ne usciva fuori, me ne usciva, quando riusciva fuori da lì vuol dire che c'era bene. Da ogni buco, sono tre buche a cosa che facevo, mio marino ha giubato 12 buchi, ha giubato, e buttavo sempre dentro. Si sa che anche bombolette ha giubricato? Beh, io non li ho fatto mai, e per cui... come li hanno fatti loro li ho lasciati, per cui il caldo entra, come entra il caldo entra il freddo, certo, sia dai fianchi sia anche dalla bocca, si lavora questa gatta, vabbè, allora hanno fatto la volta, poi hanno messo il cartone calcramato, sopra il cartone calcramato hanno fatto le piastre di cemento. E sono queste piastre hanno messo i catrame in mezzo, delle strisce. Però dopo 5-6 anni perdevano, c'erano le firme. Allora hanno fatto il catramato di nuovo, due volte. E l'ultimo che hanno fatto e hanno fatto un lavoro ben fatto e non si è visto mai una firma, ragazzi, è perfetto, però quando i casi, il tio, aspetta, brucia, la povera brucia. Lo so che ti... Non so... No, io nelle pareti... prima entrava un po' di spiccoli e cose, avanti non entrano più spiccoli. Adesso si sta bene. Ma un po' il calore me lo tiene adesso. Capito? Cioè, d'inverno, d'estate... Mi tiene un po' di fresco la camera, però d'inverno mi tiene un garoli e quindi freddo molto non ce n'è. E adesso un po' freddo non ce l'ho. Adesso anche io ho cambiato le porte finestre, perché vedete le porte finestre. E poi senza guarnizioni e ti fa il cielo dappertutto. C'era. È chiaro che il freddo è entrato in inverno, ma freddo è. E allora ho dovuto mettere a fare tutto nuovo, le porte nuove, adesso si sta bene l'inverno, dai, perché è tutto coperto. Senta, ti puoi immaginare, e ho fatto anche le finestre, per cui prima erano porte finestre, e io ho fatto in ogni camera la finestra, ho fatto il muro, e sopra il muro ho fatto la finestra, per cui... qualche pochettino dal cassonetto entra, perché sono sempre in alluminio zigato, capito? Gianari, io ti devo lasciare, immagino di bigliarmi di bacino. Ci risentiamo alle prossime, ok? Ciao Giovanni, stammi bene. D'accordo, ci sentiamo, va, buon proseguimento, saluto di casa. A domani se continui, ciao. Ciao Giovanni.